Esercizio 2. Ascolta e ripeti ciascuna coppia dell'esercizio 1 da sinistra a destra. E successivamente ascolta e ripeti le coppie da destra a sinistra. Serata, serrata. Caro, carro. Coro, corro. Faro, farro. Sera, serra. Ero, erro. Serrata, serata. Carro, caro. Corro, coro. Farro, faro. Serra, sera. Erro, ero.